rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea, cioè di giornali europei, ma soprattutto di temi europei. Mi piacerebbe molto poter presto, magari succederà, forse in estate, speriamo, avere una rassegna solo di buone notizie, ma non perché forzatamente si cerchino le buone notizie, ma perché almeno ce ne siano un po' meno di negative. E purtroppo invece anche questa settimana i temi legati al terrorismo e all'immigrazione non hanno portato esattamente delle buone notizie. Il 6 aprile in particolare, pochi giorni fa, è stato poi votato questo referendum olandese, che non è un referendum che darà prescrizioni obbligatorie, ma è comunque un segnale molto importante, come hanno segnalato tantissimi osservatori. Cioè, gli olandesi si sono espressi per il no all'accordo tra l'Unione Europea e l'Ucraina sull'associazione appunto dei due paesi, quindi sull'allargamento. Sicuramente ci sono state tante critiche nei mesi e negli anni scorsi su come forse l'Unione Europea sia stata allargata troppo in fretta, però certo che vedere un popolo che anche si presume abbastanza accogliente come l'Olanda, anche se sappiamo che insieme alla Danimarca e alla Svezia dall'Olanda sono arrivati segni di non così poi profondo sentimento di accoglienza e di apertura, ma comunque insomma fa effetto vedere un no così chiaro all'allargamento dell'Unione Europea verso est. Tra l'altro ci sono anche molte vignette sui giornali olandesi su questo e anche legate poi molti commentatori hanno poi legato questo, il risultato di questo referendum comunque al terrorismo. È un legame, lo abbiamo detto tante volte, che ha un senso da una parte e dall'altra non ce l'ha, nel senso che l'immigrazione non è strettamente legata al terrorismo o comunque al disagio, all'estremismo islamico, anche se sicuramente delle connessioni ci sono. Vi segnalo per esempio molti commenti ancora sull'accordo invece che ha visto l'Unione Europea concedere, fare delle concessioni molto importanti anche economiche alla Turchia, perché la Turchia si impegni a o accogliere o rimandare indietro o organizzare dei centri di accoglienza diversi soprattutto per i profughi siriani. E in questo caso vi segnalo una vignetta apparsa su un quotidiano francese dove si vede la bandiera della Turchia e alla mezzaluna è appeso un omino che è chiaramente un profugo, perché ha l'aria molto triste e provata, ha due grandi valigie e la mano che lo ha messo su quella mezzaluna a pendere così senza grandi prospettive è una mano che è vestita con una manica blu su cui appare invece la bandiera dell'Unione Europea, quella con tutte le stelle. Questo per dire che insomma l'Unione Europea forse ha anche sacrificato sull'altare anche dei rapporti diversi con la Turchia la questione dell'immigrazione. Un approfondimento sul perché ancora una volta sia stato il Belgio l'obiettivo degli attentati del 22 di marzo, ricorderete forse la settimana scorsa avevamo letto un pezzo sulle Zeco, su questo tema è apparso invece un articolo la scorsa settimana su El País ve ne leggo una parte. Gli attentati del 22 marzo, come quelli di Parigi a novembre, avevano come obiettivo sia il paese colpito sia l'Europa e ciò che essa rappresenta. Ecco perché la risposta deve essere collettiva. In ogni attentato terrorista perpetrato sul suolo europeo viene seguito con esasperante ripetitività lo stesso identico copione. Mentre i terroristi sferrano contro l'Europa un attacco con la A maiuscola, l'Europa dà una risposta con la R minuscola. E questo è ancora una volta il tema che è poi oscurato forse in questa settimana in particolare da altri avvenimenti di cronaca. Citavano i colleghi in innumerevoli trasmissioni nei GR tutti gli aggiornamenti sui Panama Papers, quindi diciamo che la cronaca, una sorta di cronaca economica, ha un po' oscurato questi temi, però è vero che appunto gli attentati risalgono solo al 22 marzo, continuiamo a avere indagini aperte in ogni dove, non sono ancora stati catturati tutti i responsabili, un giorno sì un giorno no, qualche leader europeo anche con una certa mancanza di cautela lancia un allarme, eppure non esiste ancora un coordinamento, ci sono stati alcuni vertici ma dai quali è uscito ben poco. Quindi scrive per esempio ancora su El País José Ignacio Torreblanca: invece di richiedere l'attivazione della clausola di solidarietà prevista dall'articolo 222 del Trattato sull'Unione Europea, che avrebbe implicato una risposta collettiva e coordinata da parte dell'Unione, il governo francese ha preferito ricorrere all'articolo 42, che collocava la reazione su un piano intergovernativo ma al di fuori delle istituzioni. E tra l'altro ricordiamo, per inciso, che a proposito di mancata, soluzione europea invece di forti iniziative dei singoli paesi, a seguito degli attentati in Francia di dicembre, la Francia ha ancora in vigore lo stato di emergenza. Quindi questo per dire proprio che si va, tuttora, a distanza di mesi, in ordine sparso. Sulla questione dei profughi è intervenuto Tobias Spiller, che è uno degli editorialisti di punta della Frankfurter Allgemeine Zeitung, questo quotidiano tedesco molto serio e quasi sempre molto critico nei confronti del nostro paese. Vi leggo una parte di questo articolo. L'atteggiamento dell'Italia nella politica sui profughi è segnata da autocompiacimento e ambiguità. Secondo appunto Piller, la gestione dei migranti nel lungo periodo diventerà più difficile se i problemi potranno ancora essere coperti con la retorica della vanità. Con i controlli sulla frontiera austriaco-italiana, adesso molta dell'ambiguità e dell'ipocrisia della politica sui profughi di Roma potrebbe diventare evidente. C'è da aspettarsi che il governo farà i suoi appelli alla tutela delle frontiere aperte, secondo gli accordi di Schengen, ma stando a questa lettura, i governanti degli anni scorsi del nostro paese devono piuttosto lasciarsi chiedere e possibilmente anche rispondere se col loro atteggiamento non abbiano minato lo spirito europeo e i trattati che adesso, evocano. Qui sono tantissime le questioni sul tavolo. C'è appunto il diverso atteggiamento, sulla politica di Schengen, che prevede la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea. È forse ingiusto accusare chi difende Schengen solo di retorica. E d'altro canto, però, ci sono gli austriaci, come abbiamo visto questa settimana, che hanno deciso di in qualche modo chiudere le frontiere, perché, può anche essere una misura, speriamo, temporanea per difendersi da, se non altro da arrivi incontrollati. Poi c'è l'altra grande questione di cui viene accusata l'Italia, che è l'incapacità di fare i controlli necessari e i riconoscimenti necessari. Passiamo a un altro argomento che seguiamo con molta attenzione e che continueremo a seguire fino in giugno, quando ci sarà questo referendum, ed è quello della Brexit. Una polemica ha investito il premier britannico Cameron, che peraltro deve anche vedersela con, le altre accuse che gli vengono mosse, che riguardano in realtà il padre, che avrebbe avuto un conto a Panama, o comunque una società, e quindi dei soldi a Panama. Non che le colpe dei padri debbano ricadere sui figli, ma qui il problema è, da una parte di opportunità, perché Cameron è, come quasi tutti i governanti del mondo occidentale, a parole un grande, fautore della lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale, sia delle persone che delle aziende. E poi perché non si capisce bene se questi soldi, comunque, il padre è morto 2 anni fa, ma se questi soldi siano in qualche modo stati ereditati o siano a disposizione della famiglia tuttora. In ogni caso, a parte questa polemica che andrà avanti, David Cameron è stato anche molto criticato perché è venuto fuori che sono stati spesi 9 milioni di sterline, quindi, tipo qualcosa come 11 milioni di euro, per mandare a tutti i britannici un opuscolo, informativo, che però sulla Brexit, che è sostanzialmente, per convincerli a votare no alla Brexit, quindi no all'uscita dall'Unione Europea. Questi Deplian mandati a 27 milioni di elettori, riguardano appunto il referendum che dicevamo è stato, fissato per il 23 di giugno. Cameron si è difeso alla BBC, si è difeso in tutti i modi, ma è stato anche facile bersaglio di alcuni, avversari politici come Boris Johnson, sindaco di Londra, che lo ha, accusato di aver sperperato e addirittura abusato del denaro pubblico. A fronte però di queste accuse a Cameron, segnalo un sondaggio, del Telegraph. Ovviamente da qui a giugno avremo anche questo costantemente, cioè sondaggi dei media inglesi su, qual è l'orientamento appunto per il referendum, se sì o no alla Brexit. Secondo il Telegraph, il fronte pro-Unione Europea, sarebbe in vantaggio, e cala inoltre il numero degli indecisi. E questo forse è il dato più interessante, perché sappiamo che nei sondaggi, soprattutto in Italia, dove tra l'altro tradizionalmente si dice che è molto difficile, è più difficile fare i sondaggi perché le persone tendono a non dare delle risposte sincere, ecco, il calo degli indecisi, secondo il Telegraph, è un'ulteriore buona notizia, oltre al fatto che oggettivamente la percentuale di persone favorevoli a restare nell'Unione Europea è aumentata. Era l'ultima segnalazione per oggi, anche se, come potete immaginare, sono anche tantissimi altri gli argomenti trattati dalla stampa europea, a partire dalle banche, non solo quelle italiane. Ci sarà tempo magari settimana prossima. Intanto ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.